Capitolo 145. L'apoteosi di Eracle. Dopo aver innalzato altari di marmo e consacrato un bosco al padre suo Zeus Aceneo, Eracle si preparò a un grande sacrificio di ringraziamento per la conquista di Ecalia. Mandò dunque Lica a Trachine per chiedere a Deianira la bella camicia e il mantello che egli indossava sempre in simili occasioni. Deianira, che viveva tranquillamente a Trachine, si era ormai rassegnata all'idea che Eracle si prendesse delle amanti e, quando riconobbe Iole, l'ultima di costoro, provò più pietà che rancore per la fatale bellezza che aveva provocato la distruzione di Ecalia. Le parve tuttavia intollerabile che Eracle pretendesse di farla vivere con Iole sotto lo stesso tetto. Poiché non era più giovane, Deianira decise allora di servirsi del supposto talismano d'amore datole da Nesso per assicurarsi l'affetto del marito. Già gli aveva intessuto una nuova camicia per celebrare i sacrifici e, di suggellata in segreto l'anfora, bagnò un panno di lana nel miscuglio che conteneva e lo strofinò sulla camicia. Quando Lica giunse a palazzo, Deianira chiuse la camicia in un cofano e glielo consegnò dicendo: «Per nessuna ragione esporrai questa camicia alla luce o al calore finché Eracle non la indosserà per il sacrificio». Lica era già partito a tutta velocità sul suo cocchio quando Deianira, guardando il panno di lana che aveva gettato nel cortile, lo vide ardere come paglia mentre una schiuma rossastra ribolliva tra i ciottoli. Resasi conto che Nesso l'aveva ingannata, mandò un messaggio a sprombattuto per avvertire Lica e, maledicendo la sua follia, giurò che se Eracle fosse morto non gli sarebbe sopravvissuta. Il messaggero giunse troppo tardi al promontorio Ceneo. Eracle aveva già indossato la camicia e sacrificato 12 tori candidi come il fiorfiore del suo bottino. In tutto egli aveva portato presso gli altari una mandria di 100 capi. Stava versando vino da una coppa e gettando incenso sulle fiamme allorché si lasciò sfuggire un grido come se fosse stato morso da un serpente. Il calore aveva fatto sciogliere il veleno contenuto nel sangue di Nesso che si diffuse sulle membra di Eracle corrodendogli la carne. Ben presto il dolore divenne lancinante e insopportabile e Eracle, ululante, cominciò a correre travolgendo gli altari. Cercò di strapparsi la camicia di dosso, ma questa aderiva alla sua pelle così tenacemente che, lacerandosi, mise a nudo le ossa. Il sangue sgorgò sibilando e ribollendo come l'acqua di fonte quando si tempra il metallo arroventato. Eracle si tuffò nel fiume più vicino, ma il veleno bruciò ancor più violento. Da allora le acque di quel fiume sono sempre ribollenti e vengono chiamate Termopili, ossia passaggio caldo. Lanciandosi su per la montagna e sradicando gli alberi al suo passaggio, Eracle piombò sull'atterrito Lica che se ne stava rannicchiato nel cavo di una roccia, le mani intrecciate attorno alle ginocchia. Invano Lica cercò di discolparsi. Eracle lo agguantò, lo fece girare 3 volte sopra la sua testa e lo scaraventò nel mare Eubeo. Colà Lica si trasformò in una roccia di forma umana che emerge dalle onde a breve distanza dalla riva. I marinai ancora oggi la chiamano Lica e non osano salirvi sopra perché credono che possa sentire dolore. Dall'esercito, che stava a guardare da lontano, si alzò un grande grido di corruccio, ma nessuno osò avvicinarsi finché, contorcendosi negli spasimi dell'agonia, Eracle chiamò Illo e chiese di essere portato via per morire in solitudine. Illo lo condusse ai piedi del monte Eta, nella Trachinia, regione famosa per il suo bianco e l'eboro, poiché l'oracolo delfico l'aveva già indicato a Licinio e a Iolao come luogo destinato ad accogliere la morte del loro comune amico. Atterrita dalla notizia, Deianira si impiccò, o, altri dicono, si trafisse con una spada sul letto nuziale. Il pensiero dominante di Eracle prima di morire fu di punire Deianira, ma quando Illo gli assicurò che era innocente, come il suo suicidio dimostrava, sospirò perdonandole ed espresse il desiderio che Alcmena e tutti i suoi figli si riunissero attorno a lui per ascoltare le sue ultime parole. Ma Alcmena si trovava a Tirinto con alcuni dei suoi figli, mentre molti altri si erano stabiliti a Tebe. Così Eracle poté rivelare soltanto a Illo la profezia di Zeus ormai avveratasi. Nessun uomo vivente ucciderà mai Eracle, ma un nemico morto segnerà la sua fine. Illo allora chiese istruzioni e gli fu detto: «Giura sulla testa di Zeus che mi trasporterai sul più alto picco di questa montagna e lassù mi brucerai, senza lamentazioni, su una pira di legno di quercia e di tronchi di oleastro. Parimenti giura di sposare Iole, non appena avrai raggiunto la maggiore età. Benché scandalizzato da tali richieste, Illo promise di rispettarle. Quando tutto fu preparato, Iolao e i suoi compagni si ritirarono a breve distanza, mentre Eracle saliva sul rogo funebre e dava ordine che vi fosse appiccato il fuoco. Ma nessuno osò obbedire, finché un pastore Eolio che passava di lì per caso, un certo Peante, ordinò a Filottete, il figlio che aveva avuto da Demonassa, di fare ciò che Eracle gli chiedeva. In segno di gratitudine, Eracle lasciò la sua faretra, il suo arco e le sue frecce a Filottete e, quando le fiamme cominciarono a lambire la pira, stese la pelle di leone sulle fascine e vi si sdraiò sopra, il capo appoggiato alla clava. Pareva sereno come un ospite inghirlandato, seduto a banchetto. Folgori allora caddero dal cielo e ridussero la pira in cenere. Sull'Olimpo Zeus si rallegrò per il nobile comportamento del suo figlio favorito. «La parte immortale di Eracle, annunciò, è a riparo dalla morte, ben presto sarà accolta in questo luogo benedetto. Ma se qualcuno si risentirà per la sua divinizzazione così ampiamente meritata, costui, sia Dio o sia Dea, dovrà pure approvarla, volente o nolente». Tutti gli Olimpi assentirono. Ed Era decise di ingoiare quell'insulto, chiaramente diretto contro di lei, perché già aveva deciso di punire Filottete per il suo atto cortese nei riguardi di Eracle con il morso di una vipera lemnia. Le folgori avevano incenerito la parte mortale di Eracle. Alcmena non avrebbe più potuto riconoscerne i miseri resti, ma a guisa di un serpente sgusciato fuori dalla vecchia pelle, egli apparve al Padre Divino in tutta la sua maestà. Avvolto in una nube che lo celava agli occhi dei suoi compagni, fra un sordo rombar di tuoni, Zeus lo trasportò in cielo sul suo cocchio tirato da quattro cavalli. Lassù Atena, guidandolo per la mano, lo presentò alle altre divinità. Ora Zeus aveva stabilito che Eracle entrasse a far parte dei 12 Olimpi e tuttavia gli spiaceva di espellere uno degli dei già esistenti per fargli posto. Convinse dunque Era ad adottare Eracle con la cerimonia della rinascita, e cioè, coricatasi, la dea avrebbe finto di essere colta dalle doglie per poi presentare gli dei Eracle sotto le sue sottane. Tale è il rito di adozione ancora in uso presso le tribù barbare. Da quel giorno Era considerò Eracle come suo figlio e lo amò quasi quanto Zeus. Tutti gli dei allora lo accolsero con gioia ed Era gli diede in sposa la sua bella Ebe. Da Ebe, Eracle ebbe due figli, Alessiare e Aniceto. Eracle in verità si era meritata la sincera gratitudine di Era durante la ribellione dei giganti, uccidendo Pronomo che aveva cercato di usarle violenza. Eracle divenne così il portiere del cielo e mai si stanca di montare la guardia presso i cancelli dell'Olimpo fino al tramonto in attesa del ritorno di Artemide dalla caccia. La accoglie sorridente e scarica dal suo cocchio gli animali uccisi, corrugando la fronte e agitando il dito in segno di disapprovazione se vi trova soltanto innocue capre selvatiche o cerbiatti. «Scocca le tue frecce contro i cinghiali», dice allora, «che danneggiano i campi e sradicano gli alberi da frutto, o contro i tori uccisori di uomini, o contro i leoni, o contro i lupi. Ma che male fanno le capre e i cerbiatti?» Poi ne squarta le carcasse e voracemente le spolpa dei pezzi migliori. Tuttavia, mentre l'Eracle immortale banchetta alla tavola degli dei, la sua ombra mortale vaga nel Tartaro fra i pallidi morti con l'arco teso e la freccia incoccata alla corda. Passando sopra la spalla, una cinghia gli attraversa il petto, decorata con terrificanti scene di caccia al leone, all'orso e al cinghiale, e scene di battaglia e massacri. Quando Iolao e i suoi compagni ritornarono a Trachine, Menezio, il figlio di Attore, sacrificò un ariete, un toro e un cinghiale a Eracle e istituì il suo culto eroico nella Locrese Opunte. I tebani ben presto lo imitarono, ma gli ateniesi, guidati dalla gente di Maratona, furono i primi a onorarlo come dio e tutti ora seguono il loro glorioso esempio. Festo, figlio di Eracle, notò che i sicioni offrivano a suo padre sacrifici eroici, ma insistette a sacrificare a lui come a un dio. Fino ad oggi, tuttavia, la gente di Sicione, dopo aver ucciso un agnello e bruciate le sue cosce sull'altare di Eracle il dio, dedica parte della sua carne a Eracle l'eroe. A Eta egli è onorato col nome di Cornopione perché mise in fuga le cavallette che stavano per abbattersi sulla città. Gli ioni di Eritre invece lo onorano come Eracle ipoctono, perché distrusse gli ipes, i vermi che attaccano i vigneti in quasi tutte le altre regioni. Si dice che un simulacro tirio di Eracle, ora nel suo tempio di Eritre, lo rappresenti come Eracle il dattilo. Questo simulacro fu trovato su una zattera che galleggiava nel mare Ionio, al largo di Capo Mesate, esattamente a metà strada tra il porto di Eritre e l'isola di Chio. Gli abitanti di Eritre da un lato e quelli di Chio dall'altro logorarono le loro forze per trascinare la zattera ciascuno verso la propria spiaggia, ma invano. Infine, un pescatore di Eritre, chiamato Fermione, e che aveva perduto la vista, sognò che le donne di Eritre dovevano intessere una corda con i loro capelli e con tale corda gli uomini avrebbero potuto tirare la zattera in secco. Le donne della tribù Tracia che si era stabilita a Eritre acconsentirono a sacrificare le loro trecce e la zattera raggiunse il Lido. Soltanto i discendenti di quelle donne possono ora entrare nel santuario dove si conserva la corda. Formione recuperò la vista, né più la perdette finché visse. Prima di sacrificare e così rendere immortale il divino Paredro, in modo analogo Calipso aveva promesso di immortalare Odisseo, la regina lo spogliava delle sue vesti e delle insegne regali. Non si accenna qui a quali tormenti e a quali mutilazioni egli fosse sottoposto prima di giacere sul rogo per essere immortalato, ma le raffigurazioni dalle quali fu tratta questa leggenda probabilmente lo mostravano sanguinante e in agonia, mentre si torceva nella bianca camicia che lo consacrava alla dea morte. La tradizione che Eracle fosse morto sul promontorio Ceneo si è fusa qui con la leggenda che egli morisse invece sul monte Eta. Iscrizioni e statuette arcaiche indicano che su questo monte il re sacro continuò per secoli a essere bruciato in effigie quando ormai non lo si bruciava più in carne e ossa. Rami di quercia erano richiesti per i falò di mezza estate e rami di oleastro per i falò dell'anno nuovo, quando il re iniziava il suo regno scacciando gli spiriti maligni dell'anno vecchio. Peante o Filottete, che dà fuoco alla pira, è il successore del re, che eredita le sue armi e il suo letto, le nozze di Iole con Illo vanno interpretate in questo senso, e muore per un morso di serpente alla fine dell'anno. In un primo tempo l'anima di Eracle fu accolta nel paradiso occidentale delle Esperidi, o nell'argenteo castello, la corona boreale, che sta dietro il vento del nord, una leggenda che Pindaro ha incluso, senza afferrarne il significato, in un breve resoconto della terza fatica. Il suo ingresso all'Olimpo, dove tuttavia non ottenne mai un posto tra le 12 maggiori divinità, come invece accadde a Dioniso, fa parte di una leggenda più tarda, forse nata da un'errata interpretazione della medesima raffigurazione sacra che ispirò la leggenda del matrimonio di Peleo e Teti, del cosiddetto ratto di Ganimede e di Eracle che riveste le armi. Questa immagine mostrava probabilmente Atena o Ebe, la giovane regina e sposa, che presentava il divino Paredro ai 12 testimoni delle sacre nozze. Ciascuno di essi era il rappresentante di un clan o di una confederazione religiosa o di un mese del sacro anno. Il Paredro rinasceva poi ritualmente da una giumenta o, come in questo caso, da una donna. Eracle figura come portiere del cielo perché morì a mezza estate e il cielo era paragonato a una porta di quercia che girava su un cardine e si apriva via via fino a spalancarsi al massimo al solstizio d'estate, per poi richiudersi lentamente mentre i giorni si accorciavano. Ciò che gli impedì di essere considerato un vero e proprio Olimpio pare fosse l'autorevole versione di Omero. L'Odissea elenca infatti Eracle fra le ombre del Tartaro. Se la statua di Eracle in Eritre era di provenienza tiria, la corda nel tempio doveva essere intessuta non con i capelli delle donne, ma con i capelli del re sacro, recisi prima della sua morte al solstizio d'inverno, così come Dalila recise i capelli di Sansone, un eroe solare tirio. Un analogo eroe solare era stato sacrificato dalle donne trace che ne adottarono il culto. La statua fu caricata su una zattera perché la sua presenza su un vascello mercantile l'avrebbe reso sacro e sarebbe stato dunque impossibile servirsene in seguito per i normali traffici. Ipoctono fu forse una variante locale del solito appellativo di Eracle o Fioctono, e cioè uccisore di serpenti. L'immagine che lo fa rinascere dal rogo funebre, come un serpente che sgusci fuori dalla pelle vecchia, è preso dal libro dei morti egiziano. Si credeva infatti che i serpenti ritardassero l'avanzare della vecchiaia cambiando di pelle. La parola geros in greco indicava sia la vecchiaia sia la pelle del serpente. Eracle vola poi verso l'Olimpo su di un carro trainato da 4 cavalli in qualità di eroe solare e di patrono dei giochi olimpici. Ogni cavallo rappresenta uno dei 4 anni compresi tra i giochi, oppure una delle stagioni dell'anno diviso in equinozi e solstizi. Un simulacro quadrato del sole, venerato come Eracle Salvatore, si ergeva nel recinto della grande dea a Megalopoli. Si trattava probabilmente di un antico altare, come molti altri blocchi di pietra quadrati ritrovati nel palazzo di Cnosso e un altro trovato nel cortile occidentale del palazzo di Festo. Ebe, la sposa di Eracle, non era forse la dea della giovinezza, ma una divinità citata nel 48° e 49° inno orfico come Ipta, la madre terra a cui fu affidato Dioniso. Proclo dice che essa lo reggeva sul capo in un setaccio. Ipta è associata con Zeus Sabazio in 2 antiche iscrizioni della Meonia, che era allora abitata da una tribù lido-frigia. Il professor Kretschmer l'ha identificata con la dea mitannica Epa, Epit o Ebe, citata nei testi di Bogaz Kewey e a quanto pare portata nella Meonia dalla Tracia. Se Eracle sposò codesta Ebe, il mito riguarda l'Eracle che compì grandi imprese in Frigia, in Misia e in Lidia. Egli può essere identificato con Zeus Sabazio. Ipta era ben nota in tutto il Medio Oriente. Una scultura rupestre a Tusas, in Licaonia, la mostra a cavallo di un leone sul punto di celebrare le sacre nozze con un dio ittita delle tempeste. Colà essa era chiamata Epatu, che pare fosse parola urrita, e il professor Rosny la identifica come Awa, la madre di tutti i viventi, che appare nel 2° libro della Genesi come Eva. Rosny cita il principe cananeo di Gerusalemme Abdi Heba, e Adamo, che sposò Eva, era un eroe tutelare di Gerusalemme.